un paio di osservazioni sul colore degli occhi. Dice Gazzaniga, Gazzaniga perché in America, se non fosse qui, sarebbe Gazzaniga, come già l'Oliva una volta mi aveva fatto notare. Gazzaniga. Michael Gazzaniga, Michael, stati in, lo dice comunque nel libro Stati della mente, stati del cervello, un libro che è stato tradotto qui nel 90. Dice che le analisi genetiche, sono cruciali per comprendere l'aspetto biologico della malattia. Il che, a forza di localizzare geni sul cromosoma, è stata accertata la correlazione fra la depressione e il colore degli occhi di una persona. Forse per lasciarci, forse per lasciarci il piacere di scoprircelo da soli, Gazzaniga si guarda bene dal dirci di che colore si tratta. Desmond Morris, passiamo a Desmond Morris, che nel suo recente libro dedicato a Il Bambino, sul colore degli occhi dice cose piuttosto interessanti. Alla nascita, secondo lui, avremmo tutti quanti occhi azzurri che con la crescita nei primi 6 mesi si inscurirebbero diventando per lo più castani. La sua spiegazione del fenomeno è presto detta. Gli occhi azzurri costituirebbero un'attrattiva in più, una proprietà seduttiva naturale, affinché i genitori si occupino amorevolmente del neonato. Quando viene meno l'urgenza del bisogno di protezione, quando l'amore di mamma è assicurato e garantito, ecco che l'occhio può incupirsi. L'azzurro, insomma, come una sorta di cavallo di Troia per penetrare nel cuore degli adulti. Che la spiegazione non sia del tutto convincente è evidente. Manca qualsiasi cenno ai meccanismi biochimici che guiderebbero questa trasformazione e soprattutto ingenera tutta una serie di sospetti verso coloro che gli occhi azzurri se li sono poi tenuti tutta la vita. Se la spiegazione di Morris fosse l'unica possibile, infatti, coloro cui rimangono gli occhi azzurri potrebbero essere considerati come figli che più tardi degli altri o addirittura troppo tardi hanno imparato a badare a se stessi. Tutta gente, in altre parole, in credito con la vita fin dalla prima infanzia, poco amati, accettati a malapena, indesiderati, tutte cenerentole nello stile famiglia in cui si sono venuti a trovare. L'Irlanda è un paese terrificante. Da questo punto di vista devono aver sofferto tantissimo. Sino vecesi poi. Non mi sarebbe occorso avere gli occhi chiari, per esempio, a me, allora, ed essere perennemente depresso, per sapere a quale colore geneticamente Gazzaniga associava la depressione, no? Non si spaventino comunque gli ascoltatori dagli occhi azzurri, perché su ciò che natura crea subito dopo comunque la cultura ci mette le mani. Gli ultimi, come diceva il Vangelo, quando gli ultimi erano dei loro, saranno i primi. Cultura alla mano, può capitare che la sofferenza iniziale, essere stato poco nel letto della mamma, sia ricompensata con gli interessi in età più avanzata, ritrovandosi spesso a letto con molteplici amanti, per esempio. Il problema di che colore di occhi avesse Edipo potrebbe essere discusso con profitto in sede critica. Credo che manchi in Freud un cenno di questo tipo, a questo tipo di problema. C'è stato dunque il tempo, in cui l'immaginario romantico popolare pullulava degli occhi azzurri di principi e fatine. A chi si presentava con occhi azzurri si aprivano tutte le porte e si offrivano anche tutte le parti, comprese quelle dell'eroe cinematografico. Poi va detto che è anche arrivato il contrario, un tempo del tutto contrario in cui ogni nefandezza che davvero si rispetti per essere compiuta deve essere compiuta da un cattivissimo e crudele dagli occhi di ghiaccio invariabilmente azzurri. Da qualche anno al cinema vado colpo sicuro, no? Se è un giallo e quello là ha gli occhi azzurri, soprattutto se il film è americano, l'assassino è lui. C'è un tempo per tutto, vuol dire, tra l'angelico e il satanico il passo è breve, come direbbero i politici, fra loro c'è l'alternanza. una volta comanda l'uno, una volta l'altro. Quelli che soffrono oggi, che ispirano diffidenza al primo sguardo, portino dunque pazienza, presto saranno scacciati dagli incubi e torneranno a popolare i sogni beati. Dalle sofferenze che presumibilmente sono state loro inflitte da piccoli, tuttavia continuerà a derivare una seccatura, che comunque vada alla moda, non passeranno inosservati e non susciteranno indifferenza. Se poi si diffondessero, se poi si diffondessero le teorie di Gazzaniga e quelle di Morris, le cose per costoro si metterebbero ancora peggio. Nel periodo di repulsione culturale verrebbero emarginati per sana paura, mentre nel periodo di attrazione culturale verrebbero emarginati per l'ombra impellente della depressione che si scorgerebbe alle loro spalle. Due buoni motivi per fare terra bruciata intorno a chi, come me, ha gli occhi azzurri. Un buon motivo in più per me per essere depresso.